Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Giocavamo quasi l'intera ora di lezione a calcio seduto. E lui se ne stava sempre lì a leggere il giornale. Ma un giorno la situazione cambia. Ragazzi, dice il professor Pasqui, come ogni anno l'istituto organizza i giochi della gioventù a cui tutti parteciperete. Sceglietevi una disciplina. Ovviamente optai per quella che scelse la maggior parte dei miei compagni, il salto in lungo. Ciao a tutti, sono Paolo Ghidini, ho 42 anni, e vivo in provincia di Brescia e sono single. Allora, il salto di cui si parla oggi si parla di un salto in lungo, ok? Si parla di molto altro, ma si parla anche e soprattutto di salto in lungo. Paolino, posso chiederti di abbassare la base, per piacere? Ecco, il salto di cui si parla oggi non è il salto che state sentendo in questo momento. Si parla di un uomo che ha 30 anni. Insomma, è quel tizio che tutti ricordate, che correva, saltava, si chiamava Carl Lewis. Lo citiamo perché è citato nel racconto del nostro ascoltatore di oggi, che è Paolo. Adesso in questo pezzo di video si sente Carl Lewis che a un certo punto esulterà, perché anzi poi mi abbassi di nuovo la base, perché il bello arriva adesso, scusami. Lui ha appena saltato ed è quel momento in cui i corridori aspettano, sai quando aspettano il risultato? Ok, e questo è il momento in cui invece vince con il record del mondo. Buongiorno a tutti, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, questo programma si chiama Voi siete qui ed è sempre quello lì. Ogni giorno raccontiamo la storia di qualcuno, oggi è la storia di Paolo, che, vi dicevo, parla di salto in lungo, ma ovviamente parla di molto altro, come tutte le storie. Parla di quella volta in cui abbiamo fatto male i conti e ci siamo leggermente sopravvalutati. 349-238-6666. Avrete in mente, insomma, avete capito di cosa sto parlando, no? Capita a tutti, prima o poi, di fare male i calcoli e semplicemente di accorgersi che alla fine si è un po' meno di quello che si pensa. Ci sono vari casi. Allora, il caso di Paolo è un caso estremo, nel senso che dura l'arco di mezza giornata probabilmente, e però è anche è così forte questa sensazione che lui per quella mezza giornata lì si sente il più figo della terra. E poi c'è un altro caso invece, il caso in cui lentamente questa cosa cresce, no? E tu nel tuo lavoro in un'attività anche parziale della tua vita, cominci a convincerti che tu quella roba lì la sai fare, e non solo la sai fare, ma la sai fare molto bene. Questa roba cresce, probabilmente gli altri ti aiutano in questo fenomeno del sopravvalutarti, finché un bel giorno tu sbatti malamente la faccia contro il fatto che niente, non eri così forte come pensavi. 349-238-6666. Allora, ve lo dico chiaramente, non eravamo preparati al fatto che non ci fosse il GR oggi, eravamo convinti di andare in onda adesso alle 16.07, quindi mancano dei pezzi, come ad esempio se riuscissi a caricare sta pagina Facebook. Attenzione, c'è sto maledetto wifi qui dentro. Oh, è partito, altrimenti non riuscivo a leggere i messaggi Facebook. Cioè, fate voi, arrivate qua e scoprite che dovete andare in onda 4 minuti prima. Allora, sono arrivati dei messaggi Facebook, come dicevo, sul profilo del programma, che è sempre quello lì, Voi siete qui, Radio 24, che raccontano di quello di cui stiamo parlando oggi, e cioè del fatto che una volta è capitata di essersi sopravvalutati. Gianluigi scrive: sopravvalutai la mia velocità quando con mia cugina organizzammo una gara a chi sarebbe arrivato primo in cucina partendo dal fondo del soggiorno. È esattamente di questo tipo di gare che parliamo oggi. Io, in quanto maschio, diedi un cospicuo vantaggio alla cuginetta di turno, sottovalutando il fatto che, cresciuta in campagna, lei aveva una struttura muscolare ben più prestante della mia forgiata in periferia. Pronti via, lei mi precede di quanto basta per entrare in cucina e sbattermi in faccia una porta vetri che nello slancio sfondo. Di lì a poco sono in pronto soccorso a suturare ferite sui polsi e braccia che ancora oggi mi ricordano quanto sia pericoloso sopravvalutarsi o quantomeno sottovalutare una cugina di campagna. 349-238-6666. Un episodio che ha a che fare, ripeto, con la vostra infanzia, come il caso di Gianluigi, o col vostro lavoro, con la vostra attività amorosa, no? Quante volte uno pensa di essere all'altezza della situazione e di avercela fatta, no? Come si dice dalle mie parti, di essersela portata a casa quella serata. E invece poi non è così. Sonia invece scrive che per lei è esattamente il contrario, cioè lei si sottovaluta in continuazione, e anche questa, diciamo, non è insomma, forse è meno carino che sopravvalutarsi. Massimo: nel 79 segnai 2 gol con la mia squadra, ero riserva, ruolo centravanti mai considerato. Vincemmo e capii in quel momento che non è difficile essere campioni. Un mix di volontà e fortuna portano tutti al successo. Ed è comunque stato stupendo, avevo 18 anni e il sapore di vittoria non è andato via. Brividi, ciao. Ecco, Massimo si sta sopravvalutando ancora adesso. Questo appartiene a un altro tipo di categoria di messaggi, no? Ci sono i messaggi, diciamo, giusti. I messaggi fuori contesto, invece i messaggi che non ci hanno capito niente. Vabbè, probabilmente questo anticipo ha preso alla sprovvista tutti, non solo noi, ma anche Massimo. La storia che è arrivata oggi, la storia di Paolo, è stata doppiata, diciamo così, da un'altra storia che però vi leggo dopo a questo punto, che è la storia di Fulvio, che racconta, che secondo me è, oltre a essere metaforica, ma chi se ne frega la metafora, è anche molto attuale, ma ve la spiego dopo. Però vi dico, è un sopravvalutarsi che ha a che fare con la vita politica. È una storia che è arrivata via mail, che ho già caricato su Facebook se volete leggerla. La mail, se avete voglia di partecipare, di scrivermi, è sempre quella: voi siete qui, @radio24.it. Questa però è la storia di Paolo. Avevo 11 anni nei primi anni 80 ed ero in prima media. Rispetto alle elementari c'erano i grandi, quella di terza, e le ragazze molto più sveglie di me. E soprattutto un corpo, il mio, che era ancora un corpo da bambino. 1,50 m, magrissimo, biondissimo, praticamente un ragnetto. E poi c'era l'ora di ginnastica con il professor Pasqui. Uno di quei professori che si trovava lì per caso. Giocavamo quasi l'intera ora di lezione a calcio seduto. E lui se ne stava sempre lì a leggere il giornale. Ma un giorno la situazione cambiò. Ragazzi, disse Pasqui, come ogni anno l'istituto, sapete, organizza i giochi della gioventù a cui tutti parteciperete, quindi sceglietevi una disciplina. Ma come facciamo? Come facciamo, visto che ogni giorno non facciamo niente e ora dobbiamo partecipare ai giochi di istituto? E soprattutto io, che disciplina avrei scelto? Ovviamente scelsi quella che sceglievano tutti i miei compagni, e cioè il salto in lungo. Avevamo tutti scelto salto in lungo perché sembrava la disciplina meno impegnativa, dove si sudava di meno, dove l'impegno era minimo e ci sembrava la cosa più semplice da fare sostanzialmente, ma non so se veramente poi sia così. Arriva il giorno della gara e senza alcuna forma di preparazione, indicazione tecnica o consiglio siamo tutti carne da macello, buoni solo per essere presi in giro per il resto della vita. Iniziano i salti. La corsia di accelerazione è il lato lungo della palestra. La zona di atterraggio è ammorbidita dai classici materassoni verde militare. Subito dopo i materassoni c'è il muro di cemento armato che delimita la palestra. Io me la faccio sotto. Mi sudano le mani. Parlo con un compagno, ma non so di che cosa parlo. Ecco, ora sono in fila. Parte il primo saltatore, parte il secondo, il terzo, e poi tocca a me. Cuore in gola, mi dico, dai, facciamo sti 3 salti che prima finisce e prima ne me ne torno alle mie cose. Inizio a correre e sento, dai gradoni della palestra dove era siepato tutto l'istituto, urlare il mio nome con anche un timido olè al momento del salto. Salto mediocre, peraltro. Eppure non mi conosce quasi nessuno, penso. Forse si sono sbagliati. Me ne torno alla linea di partenza. Da qui in poi, l'apoteosi. Non so cosa sia successo, ma tutti aspettavano il mio salto. E allora vado, un po' più fiducioso, e parto con la rincorsa. Stavolta l'urlo del mio nome è forte, fragoroso, all'unisono. Paolo! Paolo! Paolo! E io corro. Corro con questa droga emotiva che mi rimbomba nelle orecchie e nelle gambe, e poi salto in mezzo alla confusione. Salto discreto. Me ne torno alla partenza per l'ultima prova. L'urlo del mio nome a questo punto è ancora più forte, rimbomba come un tuono nella palestra. Io non corro, volo. Sono talmente leggero che vinco la forza di gravità senza fatica. Sono un canguro, sono in estasi. Nella baraonda generale vengo proclamato vincitore con la misura di 3,70 metri. Credo di essermi mai sentito così figo come questo argomento, se devo essere sincero. Lì era stato, è stato una singolarità, un unico. Penso, mi auguro di sentirmi ancora così, ma lì per adesso rimane un unicum. L'apoteosi, io salto di gioia con le braccia alzate e mando baci e ringraziamenti e il mio pubblico mi osanna. Mi sento Carl Lewis, sento il peso della medaglia al collo. Mi pare anche di sentire l'inno nazionale in lontananza. Sono campione olimpico. Sono la notizia più importante nelle pagine dedicate agli esport. Sono un esempio per tutta la scuola. Sono il più forte. Ricordo la sensazione di onnipotenza, di quanto la folla ti spinge, ti incita, ti sprona. Un'energia pazzesca. E a me è accaduto tutto così, senza preavviso, all'improvviso. La mia fama e la mia carriera di atleta, dopo il periodo di incredulità anche dei miei genitori e di mia sorella, di 6 anni più grande, si esaurirono un mese dopo, alle selezioni provinciali, in una giornata grigia, all'aperto. Loro sì che volavano, e io non vedevo l'ora di tornare a fare applicazioni tecniche, ma io me lo ricordo bene, sono stato il migliore del mondo, almeno per un giorno. It's the sickness or the cure. Earthly pleasure ring out from the rigors of this road. Earthly pleasure ring out from the caverns of my soul. Paolo non era Carl Lewis, così come io non sono mai stato Karl-Heinz Rummenigge. Purtroppo. Eppure tutte e due abbiamo vissuto un attimo in cui ci siamo sentiti dei campioni. Per un minuto ci siamo sentiti che il giorno dopo sulla Gazzetta ci poteva essere solo la nostra fotografia. Ci siamo sentiti che chi ci aveva visto mentre segnavamo quella rovesciata o facevamo quel salto era rimasto con la bocca aperta, le mani spelate per gli applausi. Secondo me è capitato a tanti di sopravvalutare se stessi o l'evento a cui si sta partecipando. Tipo salire su una montagna e sentirsi unici e poi fare due conti e scoprire che prima di te l'avevano salita parecchie migliaia di persone, tra le quali molti bambini e probabilmente con delle scarpe molto meno costose delle tue. Oppure essere tra il pubblico di un bel concerto e avere la certezza che quel concerto rimarrà nella storia. È una cosa bella sentirsi così, secondo me, è entusiasmante. E quelli che non riescono mai a provare una sensazione del genere sono un po' sfortunati. È come avere un delirio di onnipotenza senza essere dei malati psichiatrici. Come essere drogati senza essersi fatti di droga. E lo dice uno che non ha mai usato una droga, ma a malapena si beve il bicchiere di spumante a Capodanno. È che abbiamo tutti voglia di sentirci unici ogni tanto, i migliori di tutti, il centro del mondo. Per cui nostro figlio appena nato è sicuramente il più bello della città. La moto che abbiamo appena preso non è nulla di che, però è eccezionale. Oppure il pezzo che ho appena scritto è importante quanto un racconto di Truman Capote. E non faccio gareggiare il mio cane alle competizioni canine perché vincerebbe troppo facilmente. Se non avessimo questa capacità di stravedere per noi stessi e per quello che facciamo, faremmo fatica a sentirci unici e avremmo la sensazione di essere come delle formiche, tutti uguali, tutti intercambiabili. E io invece una volta mi sono sentito il re del mio paese. Il re di Romentino. È successo durante il Palio dei Rioni, circa 15 anni fa ormai, forse di più. Il Palio dei Rioni, per chi non lo sapesse, è una festa in cui i diversi quartieri del paese si sfidano in giochi poco bellicosi per decidere chi è il più figo di tutti, o almeno per quell'anno lì. Ci sono manifestazioni così in tutta Italia, mi pare. In qualche paese si fa a chi mangia più uova sode, in altri si cerca di risalire dei pali coperti di grasso di maiale, oppure si lanciano delle pietre per colpire un oggetto molto lontano. Al mio paese, tra le altre cose, al Palio dei Rioni si corre nei sacchi. Forse non è proprio come le sfide medievali a cavallo con la lancia e l'armatura, ma almeno non ci si rischia di fare male. Io ero il portabandiera del mio rione, San Giovanni, e contro di me c'erano i campioni degli altri tre rioni, Sant'Ambreuse, Cascina Rossa e Cavallè. Ora, Romentino non è una metropoli, ma se sei di San Giovanni, quelli del Cavallè li guardi con sospetto. I miei avversari erano molto più forti di me, e nella corsa dei sacchi avere gambe potenti vuol dire molto. Io ero magrolino, però contavo molto sulla mia agilità. E la mia fortuna è stata il fango. La gara di corsa dei sacchi si disputava su un prato e quella volta c'era stata una settimana di pioggia, quindi si sprofondava. I miei avversari erano più pesanti e sono rimasti praticamente impantanati nella melma, mentre io invece andavo via leggero sull'erba. Ho vinto talmente facilmente che il secondo è arrivato mentre io già tenevo in mano il trofeo. E nessuno si aspettava che io vincessi. E giuro che in quel momento non solo mi sono sentito il centro di tutto, ma avevo la sensazione che se avessi chiesto a qualcuno, a chiunque in tutto il mondo, qual era la cosa più importante successa quel 13 maggio, mi sarei sentito rispondere: Matteo Caccia che batte il cavallè. Sono stato re di Lomentino una volta e nessuno me lo toglierà mai. Ho visto Carlo, era vestito da coniglio, lavorava al parco giochi domenica sera. Distribuiva palloncini ai bambini e alle mamme divorziate da poco più di un'ora. Mi ha detto che non parte più per il Giappone, che la pesca del tonno quest'anno è andata male. Male, ma per me lui ha paura degli aerei. C'è che passa il tempo e che lo spazio resta sempre quello. Insomma, lo avete capito, lo avete sentito dal racconto di Paolo. C'è a un certo punto, forse e spero nella vita di tutti, un momento in cui noi, credo in sostanza, ci si sottovaluti e per tanto così improvvisamente vengono fuori delle potenzialità che non conoscevamo, ma soprattutto quelle potenzialità vengono riconosciute uniformemente da tutti quelli che sono intorno a noi e noi ci sentiamo un po' più grandi. E nel caso di Paolo, quasi, dopo quel salto in lungo, si è sentito quasi una divinità. Pronto Paolo? Sì, ciao Matteo. Ciao, sì. Come stai? Dove ti trovi Paolo? Sì. Adesso sono esattamente in un parco. Sì, no, ti dicevo, come dicevi tu prima, alcune volte ci si sottovaluta un po', e la mia esperienza è stata del tutto sconvolgente, come dicevo, un quarto d'ora di celebrità, una cosa incredibile. Paolo, raccontaci, torna a raccontarci un pochettino con parole tue la situazione. Allora, tu partecipi a questi giochi della gioventù, no? Quella a cui si partecipava tutti da ragazzi. Sì, si partecipa a questi giochi della gioventù organizzati dalla scuola dopo un anno in cui noi non facevamo praticamente nulla nell'ora di ginnastica, tranne che giocare a calcio seduto, che è questo muoversi come un granchio seduto, certo, e calciare sì. Il pallone. Anche noi giocavamo a calcio seduto. Sì, perché calcio, diciamo così, era troppo pericoloso. Certo. E poi a un certo punto arriva e dice: si fanno i giochi della gioventù, va bene, io che disciplina faccio? Faccio il salto in lungo. E da lì poi è iniziato tutto, nel senso che era una serie di tre salti. Il primo salto avevo voglia di finire alla velocissima tutta sta cosa, perché mi sentivo imbarazzatissimo, perché c'era tutto l'istituto accampato sulle... Sì. E il primo salto si accennavano il mio nome, al secondo di più, al terzo era un boato. Era un'acclamazione generale. Sì, ma io dicevo, ma caspita, ma sarò io, sì, sono io, imboccano proprio il mio nome, ho fatto una sorta di sillogismo, ho detto Paolo è un nome comune, Paolo sono io, ok, stanno acclamando me. E poi è successo che ho vinto, non so, ricordo solo che quando hanno proclamato il vincitore hanno detto Paolo, e io saltavo come una gazzella, come una cavalletta, e la sorpresa poi anche... Dimmi. La sorpresa? No, e dopo la sorpresa, che volevo dirlo a casa, perché avevo 11 anni, e mia sorella mi ha guardato con occhi stralunati e mi diceva, ma tu hai vinto salto in lungo tu. Perché tu come scrivi, eri alto 1,50 m, eri magrissimo, eri un ragnetto, sì, tu sì, ti definisci, sì. Per cui... Sì, ero un bambino praticamente, ero un bambino. Ma infatti la riprova del 9 è stato poi nei giochi provinciali, dove c'erano veramente degli uomini e saltavano del tipo 4,5 m, 5 m, una roba, avevano le molle nelle caviglie, e lì ingloriosamente è finita la mia carriera di saltatore in lungo, ma sì, ma forse perché ero outdoor, indoor magari andavo meglio, come era successo. Ah, giusto. Paolo, ti è mai più ricapitato nella vita di essere acclamato in questo modo, di sentirti vabbè, qui dici mi sento Carl Lewis, parli del pubblico come il mio pubblico mi osanna, ti è mai più capitato nell'arco della tua vita? No, così come in quell'occasione no, perché poi lì ho scoperto, almeno dal punto di vista sportivo, cosa vuol dire l'incitamento della folla, quando si parla del dodicesimo uomo, comunque la spinta, è una cosa incredibile, ti fa tirare fuori probabilmente delle energie che tu, non sai, che tu spesso non sai neanche di avere. Che è quello che fanno spesso i saltatori, no? Quando chiedono con l'applauso, chiedono che tutto quanto lo stadio ritmi la loro corsa. È un'energia incredibile, ti senti proprio trasportato. Io ricordo, ho la sensazione dell'ultimo salto in cui correvo e veramente mi è sembrato di vincere la forza di gravità. Adesso qua sono pura energia, come diceva Billy Elliot nel suo film, quando dicevano cos'è che provi quando balli, mi sento energia elettrica, ecco, è la stessa cosa, volavo. Paolo, mi dici poi, io mi sentivo volare. Mi dici poi che cosa hai fatto nella vita dopo, cosa fai adesso, insomma, ti abbiamo lasciato saltare tra folle di pubblico urlante, e adesso cosa fai? Adesso, come ti dicevo, sono un impiegato, faccio consulenza per le aziende in materia di privacy. E l'attività sportiva non l'ho mai presa a livello agonistico, se non il fatto di fare qualche scampagnata in mountain bike, un po' di corsa podistica. Ho fatto 2 mezze maratone, ma tipo 6-7 anni fa. Ecco, bello. Mi piace lo sforzo fisico sotto quell'aspetto. Però il salto in lungo l'hai abbandonato, di fatto. Sì, salto in lungo, ma è stato come dire, un evento unico, una singolarità, come la chiamano gli scienziati. Quando una cosa accade una sola volta nella vita, poi non si ripeterà mai più. E mi piace... Quella è stata la mia singolarità. E guarda, e mi piace anche che tu abbia scelto proprio questo episodio particolare della tua vita per raccontare qualcosa di te. E quindi preferisco, mi piace immaginarti ancora così, a 11 anni, magrissimo, biondissimo, tra la gente che urla il tuo nome. Paolo, ti ringrazio moltissimo per il racconto. Grazie a te, a tutti voi e anche alla redazione, siete stati molto gentili. In bocca al lupo, ciao Paolo. A presto, anche ciao. A te. Ciao, ciao, grazie. Voi siete qui. È appoggiato a una roccia in montagna, Paolo, nella foto che ci ha mandato e che, se volete vedere, trovate sul sito di Radio 24, la nostra pagina, Voi siete qui. È adagiata a una roccia di montagna con un abbigliamento per nulla escursionistico, su una maglietta e dei Bermuda, per cui ha l'aria di quello che gli hanno detto: dai, andiamo a farci una passeggiata in montagna. Lui: ma sì, andiamo, cosa mi metto? Mettiti un paio di Bermuda. Cioè, delle scarpe tipo da ginnastica ad asciugare a piedi nudi e soprattutto dei calzettoni di spugna mollemente adagiati sulle scarpe, anch'essi ad asciugare al sole. A coronare tutto quanto questo ritratto ha un polsino bianco da tennista che proprio con la montagna, la passeggiata e il trekking non ci azzecca niente. Sopravvalutare, verbo transitivo. Stimare attribuendo un valore eccessivo rispetto a quello reale. Sovrastimare. Sopravvalutare l'onestà di qualcuno, l'importanza di una scoperta. Non bisogna sopravvalutare le di... Non bisogna sovrabba... Sì, buonanotte. Non bisogna sopravvalutare le difficoltà di questa impresa. In economia, valutare un bene in eccesso. L'appartamento è stato sopravvalutato. Sopravvalutarsi, riflessivo. Eccedere nella stima del proprio valore e delle proprie possibilità. Attento a non sopravvalutarti. Etimo, derivato di valutare, col prefisso sopra. Data 1942. Attento a non sopravvalutarti. Io credo che dovremmo fare un mega podcast di questa roba qua. Che ne dite, Paolino? Un mega podcast del calendario. Sì, buonanotte, del calendario, sì, ciao! Del vocabolario di Voi siete qui. Ogni giorno una storia, ogni giorno una parola e... Quindi tutti i giorni un bel po' di parole messe insieme grazie ad Alessandra De Luca che ce le legge come solo lei sa fare, e che uno si ascolta tipo quest'estate. Noi finiamo a fine giugno, poi a luglio c'è un meglio di. Voi prima di partire vi scaricate il podcast, lo sto lanciando per cui dobbiamo farlo. Paolino, sappi che te ti dovrai mettere lì 215 vocabolari, taglia in testa, taglia in coda. Quanto dura tra l'altro una parola? 30 secondi, quindi facendo un calcolo veloce, 215 per 30 secondi sono 3, 7, 3 nel 2 ci sta 6 volte, sono 6, quindi lo 0, 6.000, sono 6.000 secondi, 6.000 secondi sono 60 diviso, sono 10 ore? Sono 10 ore? 3, 4, 9, 2, 3, 8, 6, 6, 6, 6, c'è qualcuno che sa fare i calcoli in sessantesimi meglio di noi, secondo me sono 10 ore, 30 secondi per 200 puntate... Fa 3, 6, 9. No, aspetta. Fa 3, 6. Sono 100 minuti. No, ma come 100 minuti? Sono 100 minuti. Sono 100 minuti e 10 ore. Vabbè. Quindi ci sarà questo podcast. Vi dicevo, voi vi mettete lì mollemente adagiati sulla roccia in montagna come Paolo, o sulla sdraio al mare, o dove volete, e vi ascoltate ogni una parola ogni 30 secondi. Tipo la parola di oggi era, già me la sono dimenticata. Qual è la parola di oggi? Sopravvalutare. 1 ora e 40, grazie Tiziano Bonini. 1 ora e 40 di podcast con 215 parole e il loro significato. Io ringrazio anche Giampaolo che mi scrive sul profilo Facebook: voi siete qui Radio 24, ma cosa scrivi con la matita mentre sei on air? Perché ho sottovalutato prima, mentre parlavo al telefono con Paolo, che la biro togli la base. Si sente poco la penna sfera. La matita invece fa molto più rumore. E avevo in mano una matita che adesso ho buttato via e mi stavo assegnando degli appunti e sentiva la matita. Vabbè, questo è un po' il bello della diretta, eh? Porca l'ho detta. Mi ero ripromesso. La prima volta che sono andato in onda in un'altra radio, in un'altra epoca, che non avrei mai detto una roba del genere. E invece eccoci qua. Pippo Baudo a Radio 24. Io pensavo, scrive Anna Laura, di sapere stirare. 10 minuti fa ho bruciato il fiore su una mia tenda. Immagino un fiore, un decoro floreale. Mia mamma, dopo qualche attimo di sconcerto, è scoppiata a ridere. Adesso la sta stirando lei. Lancio del peso, arrivata terza su 3. È rimasto un segreto tra me e il professore, che al rientro però si è gasato con tutti. Elisa da Modena. Però ce n'era una fantastica che ha a che fare, perché poi il sopravvalutare ha sempre a che fare con il sopravvalutare se stessi, ma sottovalutare un altro o altri. Eccolo qua, Gian Maria da Verona. Primo appuntamento con mia moglie, passeggiata sul lago. Classica gara di lancio coi sassi, che tra l'altro è proprio un classico. Come no? Ma ti pare? Fai un appuntamento con una ragazza che ti piace sul lago e non fai una gara di lancio col sasso? Al massimo fai la gara di lancio col rimbalzo per far vedere: ma che bravo, ma quanti ne hai fatti? Ma adesso guarda, aspetta, quando trovo il sasso giusto te ne faccio anche di più. Niente, invece per Gianmaria è classica gara di lancio coi sassi, dove lui cerca di essere generoso. Alla fine mi sbracciavo cercando di superare i suoi dannati sassolini. Ho scoperto che lei era lanciatrice di softball, e qui davvero il sopravvalutarsi ha a che fare con il sottovalutare gli altri. Ha a che fare invece solo col sopravvalutare se stesso, ma anche con una certa onestà. La mail che mi ha mandato Fulvio e che voglio leggervi, perché parla di politica e parla di come lui abbia azzardato, abbia proprio pensato di riuscire a fare una cosa che in realtà non era in grado di fare, ma sia stato così bravo da fare un passo indietro. Ciao Matteo, sopravvalutarmi non è una cosa che faccio molto spesso, anzi quasi mai. E forse è così perché l'unica volta che lo feci mi presi una bastonata sui denti che mi diede una bella lezione. La storia è questa qua. Ho 35 anni e vivo in un paese del Friuli. Lavoro come ingegnere per un'azienda vicina. Non sono mai stato in politica, ma un gruppo di persone che vuole creare una lista civica mi avvicina chiedendomi se voglio farne parte. Insomma, nel giro di pochi mesi ero diventato il candidato sindaco di quella lista. Mi ero entusiasmato in breve tempo. La campagna elettorale, per quanto minuscola, era appassionante e io mi sentivo davvero un candidato importante, manco fosse la gara alla presidenza del Consiglio. Insomma, alla fine, con 553 voti, venni eletto sindaco. Ricordo ancora il giorno in cui arrivarono i risultati. I brindisi, la festa, e io che non ci potevo credere. Da non essermi mai interessato alla politica, ero diventato il responsabile della mia comunità. Il sindaco nei paesi piccoli è ancora una delle figure di riferimento più importanti, e non mi importava se questo avrebbe significato sacrificare del tempo che prima invece dedicavo allo sport o alle vacanze. Poi l'esperienza incominciò, e io ci misi poco a capire che avevo sbagliato. che mi ero sopravvalutato e che quel ruolo non era per me, o almeno io non ero all'altezza. So che può sembrare ridicolo, ma avevo immaginato di essere in grado di stare a capo di una comunità. Avevo pensato di avere l'autorevolezza sufficiente e anche lo spessore umano necessario per stare in quel ruolo. E invece semplicemente non era così. E quindi, dopo 6 mesi, con un discorso di cui ancora ricordo ogni parola, durante una seduta del Consiglio Comunale, diedi le mie dimissioni. Da allora i miei concittadini mi considerano inaffidabile, ma io continuo a pensare di avere fatto la cosa giusta, ammettendo a me stesso e a tutto il paese che pensavo di essere in grado di fare una cosa, ma non era così. Oggi continuo il mio lavoro e penso di avere fatto la cosa migliore, ma soprattutto penso che accorgersi di essersi sopravvalutati sia molto salutare, e lo auguro a tutti. Stand up straight at the foot of your love, take it too far. I still owe money to the money, to the money I owe. I never thought about love when I thought about home. I still owe money to the money, to the money I owe. The floors I've fallen out from, everybody I know, I'm on a blood. Il bello della diretta, mi dicono, è un programma di Loretta Goggi dell'86, 86. Però il primo ad averlo usato in televisione pare sia stato Gianni Minà. Però io volevo chiedere una cosa, Tiziano, lo chiedo a te. Come con le vacche col bastone elettrificato? Se dico una roba tipo il bello della diretta, tu ti prego, solo se lo faccio in diretta. Ah, e poi un'altra cosa che non devo fare in diretta è fare dei calcoli matematici. Perché prima, cercando di calcolare, devo aver detto una roba invece che tipo 3 per 2 è 6, credo di aver detto il 3 nel 2 ci sta 6 volte, ed è arrivato uno di quei messaggi, sai, messaggi che hanno una gestualità, portano una gestualità con sé, nel senso che era talmente stizzito, diceva 3 nel 2 ci sta 6 volte, ma per piacere, e si vede proprio la faccia, ma per piacere, ma per piacere, dai, per piacere, dai, 349-238-6666, abbiamo già finito. Oggi non mi sono accorto che avevamo cominciato e non mi accorgo che stiamo finendo. Ringrazio tutti quelli che ci hanno fatto questa puntata: Stefano D'Andrea, Tiziano Bonini, Margherita Ina e Paolino Corleoni. Ringrazio anche e soprattutto l'altro Paolo, quello che ha scritto la storia di oggi, perché il racconto era il suo e anche lui è un punto rosso su una mappa. Sono Sebastiano Zanolli, abito a Bassano del Grappa, la storia di domani è la mia. E parla di come certe persone ti possono insegnare qualcosa quando meno te l'aspetti. Questa è la mia storia ed io sono qui.